Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve e benvenute e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, l'evoluzione della cultura e degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione la condizione animale. È la puntata numero 625 e parleremo di epidemie e questioni sanitarie connesse, di trasformazioni in corso nel diritto e nella politica, di strategie europee riguardanti la produzione di cibo. Come sempre, il tosco vegan chef Gabriele Palloni ci regalerà una ricetta rigorosamente non violenta, mentre la colonna sonora della puntata è affidata alle abili cure di Gianluca Masala. Nel pieno della pandemia, che continua a seminare malattie e morte fra le persone e che condiziona le nostre vite quotidiane, ecco che prendono corpo anche epidemie riguardanti gli animali, sia di allevamento che selvatici. Il caso più eclatante di questi giorni è quello riguardante la peste suina, che si è manifestata in Piemonte, con alcuni cinghiali selvatici uccisi da un'infezione conosciuta finora solo nell'est Europa, dove peraltro è fonte di grande preoccupazione, per quanto l'agente patogeno non sia trasmissibile alle persone umane. Il timore ora è che il contagio dai cinghiali passi ai maiali di allevamento e perciò il tema è all'attenzione dei decisori politici e degli addetti ai lavori anche in Italia. Si temono danni economici diretti agli allevamenti e indiretti attraverso la reazione dei consumatori, che potrebbero tenersi per precauzione alla larga dai consumi di carne suina. Le regioni Piemonte e Liguria, e poi anche la Toscana, per contenere i rischi di contagio, hanno vietato ogni attività nei boschi di decine di comuni, a cominciare dalla caccia, ma anche la pesca, il trekking, mountain bike. Sono provvedimenti pesanti, visto che l'impedimento si estende ad attività ludiche, sane e innocue, come il camminare o il pedalare nei boschi, ma si ritiene che tale provvedimento sia necessario per contenere i rischi. Le regioni stanno anche parlando della necessità di abbattere preventivamente decine di migliaia di cinghiali, i quali, ancora una volta, tornano loro malgrado al centro dell'attenzione, con il ruolo dei cacciatori tutt'altro che chiaro e soprattutto assai poco neutrale. Gli eventuali piani di abbattimento potrebbero in effetti coinvolgere questa categoria di, chiamiamoli così, sportivi, ma si corre il rischio di attribuire loro un ruolo opposto a quello realmente svolto. La caccia è parte del problema e non della soluzione, come peraltro il divieto imposto dalle regioni dimostra. La LAV, Lega Antivivisezione, sostiene che non basta vietare la caccia in 114 comuni, come è stato fatto finora. La caccia, dice la LAV, dovrebbe essere fermata in qualsiasi forma e in tutta Italia. E la stessa Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, dice ancora l'associazione animalista, a indicare i cacciatori come possibili diffusori della patologia, tanto da averli inclusi fra i destinatari di una campagna europea lanciata nel 2020 per cercare di fermare l'espansione della peste suina nel sud-est Europa. Secondo la LAV, il contagio non sarebbe stato introdotto in Italia dagli stessi cinghiali, vista la distanza dei focolai riscontrati dai confini orientali, teorica porta d'ingresso dall'est Europa. Ed è quindi realistico, dice l'AV, presumere che il veicolo di introduzione del virus nel nord-ovest del nostro paese sia l'essere umano. Se inoltre si considera che le vittime della contaminazione sono cinghiali selvatici allo stato libero, regolarmente cacciabili fino al 31 gennaio, dice ancora la LAV, è evidente che i principali indiziati non possono che essere i cacciatori, assidui frequentatori delle zone abitate dai cinghiali. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't. Mentre si cerca di circoscrivere la diffusione della peste suina, un altro allarme riguarda gli allevamenti di polli. Un'epidemia di aviaria è in corso in Europa dall'ottobre scorso e ha riguardato anche l'Italia. Nella sola provincia di Verona sono stati uccisi già oltre 13 milioni di volatili, morti per la malattia o eliminati per evitare il dilagare del contagio. L'ultima cattiva notizia arriva dal Regno Unito, dove è stato riscontrato un caso di salto dell'agente patogeno alla specie umana. Alla fine questa sommatoria di emergenze sanitarie, la peste suina, l'influenza aviaria, la pandemia da coronavirus, a noi sembrano chiari messaggi. Sono l'effetto di un sistema economico produttivo che sta diventando insopportabile, di una pressione sugli habitat e sugli esseri viventi che ha passato la misura. Sarebbe necessario allora affrontare queste emergenze non solo con gli strumenti del contenimento caso per caso, a forza di divieti, di abbattimenti e di altre misure sanitarie, ma curando le cause di quanto avviene. E forse è proprio questo il punto, l'analisi delle cause e la predisposizione di provvedimenti conseguenti di prevenzione, con uno sguardo a lungo periodo, che non si vuole mettere a fuoco, perché ciò comporterebbe la messa in discussione di equilibri, interessi e pigrizie che al momento hanno chiaramente la meglio sulla sicurezza, sulla qualità della vita, sulla possibilità di futuro della nostra e delle altre specie. A proposito di sguardi miopi, concentrati esclusivamente sui fenomeni emergenti e di visioni di insieme, può essere utile la lettura di un brano di un lungo intervento pubblicato sul quotidiano Domani come estratto di un articolo uscito sulla rivista cattolica Vita e Pensiero del 13 gennaio scorso. L'autore è Bruno Latour, filosofo e antropologo francese che ha dedicato molta attenzione a alcuni libri alla questione ecologica del nostro tempo. Ecco un passaggio dell'intervento, pubblicato da Domani con il titolo «La teologia ripensi se stessa. La Terra è il nostro Eden». A essere in causa, dice Latour, sono i limiti dell'antropocentrismo, limiti che si intendono tanto nel tema classico di una dipendenza dell'uomo di fronte al suo creatore, quanto nel tema attuale della dipendenza dell'uomo in rapporto ai viventi, che hanno costituito a poco, nel corso di miliardi di anni, il mondo provvisoriamente abitabile nel quale egli si è inserito. Evidentemente, il superamento dell'antropocentrismo è stato impossibile fin tanto che si associava la svolta ecologica a un culto della natura. La contraddizione con il messaggio evangelico, come pure con la proiezione cosmologica ordinaria, appariva troppo forte. Ma l'ecologia ha alla fin fine poco a vedere con la natura. Questa invenzione del XVII secolo, nata per fare da cornice alla trasformazione cosmologica dell'epoca. Oggi non si tratta più di natura, ma di cura degli esseri da cui noi dipendiamo e che dipendono da noi, e dei quali nessuna legge superiore regola in anticipo il destino. For my La necessità di un ripensamento delle categorie filosofiche, politiche e anche religiose è sempre più incombente, come dice Bruno Latour, ma ora concentriamoci su alcune interessanti notizie che testimoniano di trasformazioni concrete in corso. Sono due notizie che arrivano dalla Spagna. La prima riguarda la materia delle separazioni e dei divorzi, casi spesso dolorosi e anche difficili sotto il profilo legale, casi che sovente chiamano in causa anche gli animali domestici, coinvolti, come gli eventuali figli delle coppie, nelle controversie. Ebbene, in Spagna una nuova legge definisce i criteri da seguire in casi del genere e concede il diritto all'affidamento condiviso degli animali domestici, che sono considerati come esseri viventi dotati di sensibilità e non più come semplici cose. In caso di divorzio, quindi, il giudice d'ora in poi dovrà prendere in considerazione, aperte virgolette, il futuro degli animali da compagnia, tenendo conto degli interessi dei familiari e del benessere animale, distribuendo l'affidamento e la cura. L'opzione dell'affidamento condiviso, già prevista per i figli, viene quindi estesa agli animali domestici. E inoltre la legge obbliga le persone umane a garantire il benessere degli animali anche durante le cause di separazione e divorzio. E al giudice è concessa la facoltà di rifiutare o revocare l'affidamento di un animale in presenza di insufficienti garanzie o di precedenti per abusi sugli animali. Wait, I'll be swifter than the speed of light. Carbon on my body, a billion years of time. You'll tema di interesse animalista di cui si discute in Spagna in questo periodo nasce da alcune dichiarazioni di Alberto Garzón, 36enne ministro del Consumo, un dicastero sconosciuto da noi. Garzón, che fa parte della coalizione Izquierda Unita, in un'intervista al quotidiano britannico Guardian, ha criticato quelli che ha definito maxi allevamenti. Bisogna distinguere, secondo Garzón, fra allevamenti industriali e allevamenti estensivi. Questi ultimi sono ecologicamente sostenibili e hanno molto peso in regioni della Spagna come le Asturie, la Castiglia, León, l'Andalusia, l'Estremadura. Garzón ha puntato il dito contro i maxi allevamento descrivendo un modello imprenditoriale sostanzialmente predatorio. Prendono una località della Spagna spopolata, detta il Guardian, e ci mettono 4.000, 5.000 o 10.000 capi di bestiame, inquinano i terreni e l'acqua e poi normalmente esportano la carne. Ed è una carne di peggiore qualità, è maltrattamento degli animali ed è un impatto ecologico enorme. Non è niente di troppo diverso rispetto a quanto avviene in altri paesi europei, Italia compresa, alle prese, come è noto, con enormi problemi di inquinamento, oltre che di incomparabile sofferenza animale, soprattutto negli allevamenti della Valpadana. Come era prevedibile, il ministro spagnolo è stato criticato pesantemente da chi ritiene di dover difendere senza riserve l'industria spagnola dell'allevamento, un comparto decisamente potente. Garzón è stato accusato di attaccare gli allevatori e lo stesso primo ministro, il socialista Pedro Sánchez, ha preso le distanze da Garzón, dimostrando di non avere compiuto quel percorso di maturazione politica e culturale auspicato da Latour. Questa polemica, ha detto Sánchez, mi crea moltissimo dispiacere. Stiamo parlando di un settore che in Spagna produce carne di assoluta qualità. Garzón, nonostante Sánchez, non ha comunque fatto marcia indietro e ha ricordato che sia in Spagna sia su scala europea si stanno prendendo provvedimenti per limitare i maxi allevamenti. E già in estate Garzón aveva invitato i cittadini a mangiare meno carne. A proposito di allevamenti, di produzione di cibo, di strategie agricole, vi proponiamo una nuova voce della rubrica di Francesco Panier, Lessico dell'Antropocene, un vademecum per orientarsi nel complicato mondo dell'emergenza climatica e delle politiche ambientaliste o pseudoambientaliste che di questi tempi vanno per la maggiore. Vi ricordiamo che sul nostro sito restiamoanimali.it sono disponibili i podcast con i lemmi scelti da Francesco nelle puntate scorse. si chiama Farm to Fork, ovvero dalla fattoria alla forchetta, o se volete dal campo al piatto, la strategia europea per aumentare la sostenibilità del sistema alimentare. È una delle diramazioni del Green Deal, il piano complessivo seguendo il quale il vecchio continente dovrebbe fronteggiare la crisi climatica. Varata nel 2020, dovrebbe rappresentare la risposta al gran numero di problemi che affliggono un settore agricolo industrializzato sempre più impattante sull'ambiente, la salute e il clima. Prevede un dimezzamento dell'uso di pesticidi e di fertilizzanti sui terreni e delle vendite di antibiotici per l'allevamento entro il 2030, oltre a un aumento della superficie coltivata a biologico fino a coprire il 25% del totale. I critici hanno trovato scarsa ambizione in questi target all'apparenza molto coraggiosi, ma la maggior parte delle organizzazioni ambientaliste ha preferito sostenerli per tentare almeno di portarli a casa. Tuttavia, le informazioni che abbiamo sulla situazione di partenza e sulle prime misure messe in campo non lasciano ben sperare. Per quanto riguarda l'allevamento, è un settore che sta diventando sempre più concentrato. Secondo una ricerca del Guardian, il numero di allevamenti nell'Unione Europea è diminuito drasticamente negli ultimi 15 anni, con 3 milioni e mezzo di aziende chiuse. Nello stesso periodo, però, è aumentato il numero medio di animali per singola impresa, il che dimostra una intensificazione del settore, che trascina con sé un uso consistente di antibiotici e farmaci veterinari e una crescita dell'impatto climatico. Le emissioni di gas serra degli allevamenti intensivi rappresentano infatti il 17% delle emissioni totali dell'UE, più di quelle di tutte le automobili e i furgoni in circolazione. Poi ci sono i pesticidi, che restano ampiamente utilizzati in tutto il continente, con l'Italia al terzo posto dopo Francia e Spagna. Il nostro paese fa registrare un uso di 6 kg di pesticidi per ettaro contro una media comunitaria di 4. La maglia nera va ai frutteti del Trentino Alto Adige e ai vigneti del Veneto. Tra le colline del Prosecco e i meleti della Val di Non si consuma la strage delle api, delle farfalle e l'intossicazione delle comunità locali. Anche i fertilizzanti, il cui uso è rimasto sostanzialmente invariato dagli anni 90, rappresentano un grave problema ecologico. Se ne utilizzano troppi e la quantità non assorbita dai terreni percola nelle falde acquifere, finendo nei laghi e nei mari e innescando una crescita di alghe e piante marine che tolgono ossigeno alla vita acquatica, soffocandola. Di fronte a tutto questo, la strategia Farm to Fork, con i suoi obiettivi, sarà ben poca cosa se non verrà tradotta in regole vincolanti a livello di paese. Purtroppo, i fondi della politica agricola comune, di cui abbiamo parlato recentemente, andranno ancora una volta, senza condizioni, a beneficio di allevatori industriali e imprenditori agricoli che utilizzano alte quantità di chimica. Una pioggia di miliardi che spingerà il nostro sistema alimentare sempre più lontano dalle promesse europee. Dal campo al piatto, dunque, continuerà ad arrivarci per diversi anni tanto cibo spazzatura che dovremo essere bravi ad evitare. Abbiamo parlato della Spagna, della sua nuova legge sull'affidamento condiviso degli animali domestici e delle dichiarazioni del ministro Garzón contro i maxi allevamenti. E alla Spagna è dedicata la ricetta della settimana di Gabriele Palloni, titolare della rubrica Il pasto gentile e autore del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Per far la vita meno amara mi son comprato sta chitarra, cantava Nino Manfredi. E noi, sconvolgendo la rima, la vita ce la addolciamo con una bella catalana, in questa ricetta dedicata alla Spagna. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo, deep down in the jungle I start banging my first bongo. Gli ingredienti per 4 persone per la crema catalana sono 500 ml di latte di soia o altra bevanda vegetale, 50 g di zucchero di canna chiaro, più un cucchiaio per ogni porzione, 50 g di amido di mais, la scorza di mezzo limone, una stecca di cannella, un pizzico di noce moscata, un pizzico di curcuma in polvere e un pizzico di sale. In una casseruola unite 400 ml della bevanda di soia assieme a 50 g di zucchero, la scorza di limone tagliata a lamelle, la noce moscata e la stecca di cannella. Portate ad ebollizione, quindi togliete dal fuoco e lasciate intiepidire e successivamente filtrate il tutto. A parte stemperate l'amido di mais con la rimanente bevanda di soia, la curcuma e il pizzico di sale. Unite le due preparazioni mescolando con una frusta. Mettete sul fuoco a fiamma bassa e sempre mescolando fate addensare fino ad ottenere una crema liscia e densa. Togliete dal fuoco e versate in 4 cocotte. Coprite con della pellicola e lasciate riposare per almeno 2 ore. Una volta che la crema sarà ben raffreddata e compatta, togliete la pellicola e cospargete ogni porzione con un cucchiaio di zucchero di canna, che farete caramellare con l'apposito cannello. Quando lo zucchero avrà formato la tipica crosticina da rompere col cucchiaio, portate in tavola. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby, I'm the king of bongo bongo. King of the bongo, king of the bongo. Per questa settimana è tutto, vi saluta l'intera redazione di Restiamo Animali, composta da Gabriele Palloni, Gianluca Masala, Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Francesco Panier, Gianni Ferrarotti, Zenone Sovilla e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bongo. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.